interessa aiuta la cappa già, la cappa già. E aiuta poi venuta poi seduta sta sempre ca, sta sempre ca. La cappa volta volta torna torno attorno a te, attorno a te. Lo corre canta sempre notte all'orno sposando i ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, di una ragazza dopo che avverrà pianto. Poi ci chiarisci la voce e ricomincia il canto. Te vai, o me ne assai, ma tanto tale tale assai, e una catena ormai, e sei dedica. Senti il dolore della musica, si alzò del pianoforte, ma quando vedi la luna uscire da nuvola, gli sembrò più dolce un quell'amore. Guardo negli occhi la ragazza, occhi verdi come la mare, poi all'improvviso c'è una lacrima e credete di affogare. Di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scorare le parole o in fondo ai tuoi pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di domenica. Ma sia la vita che finisce, non ci pensava tanto. Anzi si sentiva già felice, ricominciò il suo canto. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yeah. quando eri solo e vivo altrove e io sovo il mondo dal cielo e vedo il mare, la foresta, te do me che vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Oh, sono sempre Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh, Passa senza che lo passo mai insieme a te. Ti pensavo sempre e sogni tu con me. Per me il mondo finirà se non ci fossi tu. Ovunque vai, voglio che sai. If you need a friend or a lover or a place that you can hide, I will always be there, even though my hands are tied. I know deep down inside, if you consider what we share, maybe you'll see you're all that I need. Vivo una vita che cercando a te, e non importa che io sento per te. Soltanto una notte ancora, chiamami amore. Tutta la vita l'ho passato for someone like you. There's never been a better time, there's never been a better place for you and I together here. Oh, I'll do anything if you just let me in your life. Whatever it takes, I won't make the same mistake. E una vita che cercando a te, e non importa che io sento per te. Soltanto una notte ancora, chiamami amor, tutta la vita l'ho passato for someone like you. Could it be, could it be the brightest star? The brightest star, yet still far away. Let's get it out slowly. Don't you know? Sento per te. madre da stanza. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pensiero, sempre un amabile, leggia traviso, in pianto e risso, e menzognero, la donna è mobile, quella che me l'ha detto, muta la cielo, e di pensier, e di pensier. S'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentasi, felicia pieno, a chi su quel sero non mi va amore, la donna è vattir, quella più nel letto, muta la gente, è di pensier. Pensier.